Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La partita della chimica verde è straordinariamente complessa e ricca di opportunità. E quella di stasera è la storia di un'opportunità che viene raccolta, viene coltivata e il risultato è un nuovo biopolimero dalle prerogative uniche. Una bioplastica che potenzialmente può sostituire il polietilene e i suoi derivati, cioè in pratica quella che noi chiamiamo plastica per eccellenza. Si tratta di una famiglia di molecole che prendono il nome di polidrossialcanoati. È una famiglia, diciamo, che c'entra con i poliesteri e sono molecole che hanno la caratteristica di essere totalmente biodegradabili. Bastano pochi giorni immerso nell'ambiente naturale, per esempio nell'acqua di un fiume oppure del mare, o sepolto nel terreno, perché questo materiale svanisca completamente. Il fatto è che questi polidrossialcanoati sono per molti microorganismi presenti in natura l'equivalente di una tavoletta di cioccolato coi cereali. Ma ora io mi fermo, tutto il resto ce lo facciamo raccontare da Marco Astori, che è amministratore delegato di Bion, l'azienda italiana che ha sviluppato questo brevetto e questa tecnologia. Buonasera Astori. Buonasera a tutti. Dunque Astori, lei si occupava di RFID fino a qualche anno fa, vero? Poi che cosa ha fatto? Esatto, mi occupavo di RFID, poi a un certo punto si è stato chiesto di trovare materiali estremamente interessanti dove applicare queste antenne per la radiofrequenza e abbiamo scoperto che c'era un mondo che stava nascendo dei biomateriali dove c'era veramente tanto da fare e da scoprire. E da lì abbiamo ceduto le nostre quote e ci siamo lanciati nella ricerca. Lei è il suo socio? Io e il mio socio in giro per il mondo di brevetti che potessero essere estremamente interessanti per poter produrre biopolimeri estremamente innovativi. E vi imbattete in degli strani animaletti, ce n'è di tutti i gusti su questo pianeta. Ce ne sono veramente di tanti tipi, ma soprattutto la cosa più impressionante che abbiamo scoperto è che di fatto la plastica è stata creata già da tanti milioni di anni proprio dagli stessi batteri che pensavano proprio fin dall'inizio di utilizzare una loro riserva di energia, come per noi essere umani è il grasso, quindi producendo al loro interno, cibandosi di fonti di carbonio, quindi di scarto, il più delle volte, producendo al loro interno dei poliesteri. Questi poliesteri, che sono già effettivamente plastica, sono la riserva di energia di questi batteri. Ecco, insomma, sono un ceppo di batteri che si nutre invece di ingrassare plastifica, praticamente. Esatto. Ecco, a questo punto voi che cosa fate? Dovete allevare questi batteri, in qualche modo li nutrite, come funziona? Li nutriamo con degli scarti agricoli. Sì. Abbiamo deciso fin dall'inizio di percorrere una strada un po' unica nel mondo della produzione di biopolimeri, quindi utilizzare non cibo, quindi non mais, non cereali per produrre biopolimeri, ma scarti derivanti dall'agricoltura, fonti di carbonio, in questo caso scarti della produzione di zucchero, quindi melasso di barbabietola o canna da zucchero. Lo diamo da mangiare a queste colonie batteriche all'interno di un fermentatore. Nell'arco di 30-40 ore si riempiono di questa riserva di energia, di queste micropalline bianche dal punto di vista figurativo, che noi poi andiamo a estrarre senza nessun solvente organico, solo con una specie di spremuta a caldo, diciamo. Esatto, andiamo a estrarre naturalmente questa plastica, la essicchiamo, la facciamo diventare pellet di fatto e utilizziamo le stesse macchine che oggi vengono utilizzate per fare i prodotti plastici per fare un tipo di plastica che ha solo il nome della plastica di una volta, ma è un materiale completamente nuovo. È completamente, soprattutto, ecco sì, ha le stesse caratteristiche, diciamo, allora, meccaniche del polietilene, di tutta una serie di plastiche molto diffuse, certo. E ha però questa caratteristica incredibile che può essere distrutto dalla natura addirittura in pochi giorni. Come mai? Esatto. Prodotto dalla natura, quindi certo, dai batteri, trasformato dall'uomo in oggetti, una volta che viene rimesso in natura, quindi nelle acque, come diceva lei prima, di fiume, di macero, di fosso, di mare o in terreno, ci sono altri batteri di altre famiglie che se lo mangiano. Che se lo mangiano. Fanno tornare certo, di nuovo in natura senza nessun intervento dell'uomo. Ecco, forse proprio l'esempio giusto è quello del miele, no? Le api lo mettono via per loro come scorta, ma poi ci sono anche altri animali che sono molto interessati a questa sostanza. Per capire un po' bene, diciamo, la portata, il fatto è che anche se oggi esistono vari tipi di diciamo polimeri biodegradabili, questo intanto si produce da scarti. Noi abbiamo parlato pochi giorni fa dell'effetto ILUC, cioè di quello che accade quando si aumenta la domanda di produzione agricola per produrre biocombustibili o quant'altro, anche bioplastiche, e sappiamo che è molto pesante. Il secondo aspetto è la rapidità della disintegrazione, il fatto che non richiede solventi, non richiede azioni meccaniche particolarmente, cioè in realtà molti di quelli che noi chiamiamo biopolimeri non sono così tanto biodegradabili. E purtroppo no, nel senso che hanno solo delle azioni di biodegradabilità parziale, ad esempio il compostaggio. Il compostaggio, non tutte le persone lo sanno, è un qualche cosa che viene fatto meccanicamente a temperatura controllata, e poi il terriccio che rimane non sempre è remissibile in natura. Quindi da questo punto di vista, chiudere il cerchio con un prodotto plastico fatto dalla natura e che può riandare in natura senza causare nessun tipo di problema, per noi era la vera mission. Ed è quello che fa veramente la differenza. Ecco, siamo a un passo dalla, diciamo, produzione su scala industriale, non è qualcosa che è di là da venire. No, tra l'altro noi come modello di business abbiamo pensato di non arroccarci in quello che è la produzione, visto che abbiamo scoperto e pensiamo ad avere veramente una soluzione molto importante per l'ambiente da distribuire nel mondo, abbiamo deciso di licenziare le tecnologie, quindi abbiamo già venduto 2 licenze in Italia, lo stiamo facendo in altri paesi europei, presto negli Stati Uniti, in maniera che in pochi anni possono esserci tantissimi stabilimenti che producono questo tipo di biopolimero fatto dalla natura e rimesso in natura dalla natura stessa. Quindi diciamo che la vostra è una impresa che fondamentalmente vive di ricerca e sviluppo e dei proventi della proprietà intellettuale. Esattamente, noi fin dall'inizio non abbiamo usato venture o banche per partire, ma ci siamo autofinanziati sempre vendendo quello che era il progresso della tecnologia che mettevamo a punto. Abbiamo trovato tante aziende interessate ad investire e abbiamo utilizzato questi denari che arrivavano dalle vendite delle licenze, dalle esclusive, per proseguire lo sviluppo e la messa a punto della tecnologia industriale. E questo ci ha reso estremamente indipendenti e quindi poco attaccabili anche da multinazionali o sì, poi grandi, soprattutto siete voi gruppi. Proprietari dell'azienda, diciamo. Grazie a Storri. Grazie, buonasera. È tutto, a domani.